Blu Radio Veneto. Soinfo, salute e società, punto radio, a cura di Soroptimist International Club di Treviso, in collaborazione con l'azienda ULS numero 2 marca trevigiana. Eccoci ad un nuovo appuntamento con Soinfo, la rubrica radiofonica settimanale che vi accompagna nell'approfondimento dei temi della salute della società, osservandoli con uno sguardo plurale, quello delle donne, dei bambini e delle bambine. Ultima puntata, quella di oggi, dedicata all'argomento con il quale abbiamo inaugurato il 2017, il benessere di bambini e bambine. Incontriamo di nuovo la dottoressa Annalisa Visentin, direttore del distretto sociosanitario numero 1 di Treviso, per conoscere quali siano in particolare i servizi di sostegno ai più piccoli e ai giovani. Parliamo oggi di servizi aggiuntivi, diciamo così, per bambini e giovani. Parliamo sempre quindi con l'ottica del distretto. Nel distretto sociosanitario esiste un'unità operativa infanzia, adolescenza e famiglia che è in tutta l'azienda ULS 2 e è finalizzata alla tutela della salute donna soggetto in età evolutiva, nonché coppia e famiglia in tutta la sua globalità. Un servizio specifico è proprio il servizio per l'età evolutiva, si chiama proprio così. Ed è un servizio fatto da molti specialisti integrati fra loro, poi magari ne dettagliamo, che però lavorano in piena rete, in piena sintonia, in piena integrazione con servizi, istituzioni, scuola, associazioni del territorio intero. Il servizio di età evolutiva si dedica appunto ai minori, affetti anche da disabilità, alla sua famiglia o da qualunque problematica, ed è composto da psicologo, neuropsichiatra infantile, assistente sociale e tecnici di riabilitazione, logopedisti e psicomotricisti. E questi servizi offrono la loro consulenza, la valutazione, ma anche sostegno e orientamento, nonché gli interventi di riabilitazione e integrazione scolastica. L'attività più importante sono in rete con la scuola, per qualunque problematica che venga dagli insegnanti rilevata. Esiste poi un protocollo provinciale specifico per le eventuali certificazioni, legge 104, e dove vengano ipotizzate necessità di avere l'insegnante di sostegno. Esistono poi per i ragazzi, i consultori giovani e altri operatori, educatori professionali dedicati ai giovani, agli adolescenti, in collaborazione piena con gli istituti scolastici, specie superiori, per interventi di prevenzione di rischi alcol correlati, ma non solo, con attività dedicata a educazione alla salute. Vengono anche con alcuni siti scolastici organizzati specifici stage formativi con gli studenti. Esiste anche un altro centro nel nostro servizio evolutivo dedicato a bambini e adolescenti con problematiche, che è quello dedicato all'autismo e ai disturbi generalizzati dello sviluppo, che è un centro nel nostro distretto e che è un centro che abbiamo di secondo livello come consulenza specifica su questa problematica. Soinfo, salute e società, punto radio, a cura di Soroptimist International Club di Treviso, in collaborazione con l'azienda ULS numero 2 marca trevigiana.